Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:17, cari ascoltatori, dopo il Parlamento siamo pronti a leggere i giornali e vi ricordo anche che oggi parleremo di un tema che sui giornali è molto sviluppato e cioè, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, i 218 parlamentari che fanno una proposta di legge per legalizzare la cannabis. Eccoci qui. E allora, ne parleremo con Benedetto Della Vedova, che è vice ministro degli esteri, ma in questo caso è il primo firmatario di questo gruppo di parlamentari. Sarà con noi anche il magistrato Nicola Gratteri, che invece è contrario. Cercheremo di avere un approccio, per carità, non morale o moralistico. Sappiamo tutti che la droga fa male, questo non c'è bisogno di dirlo, ma se volete lo ridiremo per 500 volte di seguito. Cercheremo di capire se un approccio pragmatico può portare a, con dei coloro che sostengono di sì, altri che sostengono di no, a dei benefici anche economici, di lotta al crimine. Ne parleremo con Benedetto Della Vedova e Nicola Gratteri. Ora andiamo a leggere i giornali. Beh, succede una cosa straordinaria in questo giovedì 16 luglio alle ore 7:18, entra in studio Lorenzo Nespoli e mi porta la copia del Corriere della Sera. Di solito arrivano tutti alle 5:30, ma oggi il Corriere della Sera è arrivato adesso, in questo momento. Quindi leggerò gli altri giornali, il Corriere della Sera lo leggerò così, in presa diretta con voi. Non so che cosa contenga all'interno, posso vedere solo la prima pagina in diretta. Comunque, il Sole 24 Ore, come tutti i giornali, apre sulla questione del sì del Parlamento greco nella notte al piano proposto dall'Europa per ottenere in cambio 86 miliardi di aiuti. Quindi c'è stato il sì, ci sono stati anche i primi scontri ad Atene tra polizia e antagonisti. Ci ha raccontato un ascoltatore in diretta che nella notte anche a Roma qualche vandalo disgraziato ha preso di mira, imbrattando eccetera tutti i bancomat o vari bancomat della Deutsche Bank, banca tedesca. Ripeto, l'ascoltatore ce l'ha segnalato in diretta. Comunque, la lunga notte della Grecia è il titolo del Sole 24 Ore in prima pagina, mentre il Corriere della Sera, eccolo qui fresco fresco, il sì a Tsipras tra le proteste. Repubblica, sì del Parlamento a Tsipras. Il Fatto Quotidiano, Tsipras, vittoria di Pirro, ok al piano europeo, Siriza KO. Siriza è il partito di Tsipras. La Stampa, il sì sofferto della Grecia alle riforme. Il Messaggero, Grecia, Tsipras dà l'ultimatum, il Parlamento è pronto al sì. Questo chiaramente era stato stampato prima che ci fosse il sì. Il Giornale, la Grecia si arrende nel caos. Per l'Unità è definito il riformista Tsipras. Il Manifesto invece, la scelta di Siriza, e c'è una foto del Parlamento. Come vedete, tutti declinati sulla Grecia. Chi fa scelte diverse è Avvenire. Dura la povertà. 4 milioni di italiani in condizioni di indigenza. 4 milioni di italiani. Mentre Libero mette i voti alle banche italiane. Una per una, ecco le valutazioni delle agenzie di rating alle banche italiane. Come detto, noi parleremo di questa proposta che è ben sviluppata sui giornali dei 218 parlamentari che vogliono la cannabis legale, una proposta trasversale, raccoglie parlamentari di ogni schieramento politico, si vuole dare il via libera all'uso ricreativo, cioè ognuno potrà tenere una quantità di droga, di cannabis in casa, solo in casa, perché non si potrà fumare assolutamente all'aperto. In pratica i maggiorenni potranno detenere una quantità di 15 grammi per uso ricreativo in casa, 5 grammi fuori casa, divieto assoluto per i minorenni. La cannabis sarà venduta in appositi negozi che dovranno possedere la licenza fornita dai monopoli di Stato, è vietata invece importazione ed esportazione. Non si fuma nei luoghi pubblici, ma solo in casa o nei cannabis social club, così vengono definiti. Questo è in sintesi ciò che prevede la proposta di legge. favorevoli, contrari, ne parleremo alle 8.15, voi tenete l'argomento caldo che poi lo approfondiremo. Tenete l'argomento caldo, non è una battuta con doppio senso. Allora, altre notizie che mi hanno colpito sono queste. Amici pendolari, c'è una notizia per voi, una notizia buona. Se siete in treno, ci ascoltate in treno o prendete il treno tutti i giorni. Federico Genta lo racconta sulla Stampa, pagina 13. Trenitalia ha deciso che per il momento non scatteranno le multe per coloro che vanno sui treni Frecciarossa senza avere prenotato il proprio posto a sedere. Almeno fino a settembre sarà così. La notizia era nell'aria, ma la conferma è arrivata ieri al termine di un acceso incontro dei vertici romani di Trenitalia, così racconta la Stampa. Il gruppo ha deciso di ascoltare le richieste dei pendolari che ogni giorno affollano le tratte dell'alta velocità. Il comunicato non parla solo di un ulteriore periodo di proroga per monitorare stabilmente le novità introdotte, ma annuncia quali sono gli obiettivi che la società conta di raggiungere entro la fine dell'estate. Quindi si parte dalle multe rimandate che sarebbero dovute scattare oggi. 8 euro di sanzione e soprattutto l'obbligo di scendere dal treno alla prima fermata disponibile. Quindi questa è la notizia positiva per i pendolari. Trenitalia rivede l'obbligo di prenotazione, si pensa poi anche a un abbonamento unico, ci sono altre novità, ma questa è quella più imminente per tutti i parlamentari. Che dire invece e che cosa ti ha combinato il presidente del Napoli, De Laurentiis? Che ti ha combinato? De Laurentiis pare, questa è la versione di del poliziotto che ha fatto denuncia, certo vai a trovare l'articolo di De Laurentiis, vabbè, De Laurentiis ha aggredito un poliziotto, questo almeno dice il sindacato di polizia, all'aeroporto di Napoli, a Napoli Capo Chino. Portami le valigie, il patron del Napoli aggredisce la gente. Pagina 21 di Repubblica. Irene De Arcangelis racconta la furia di De Laurentiis in aeroporto dopo il rifiuto del poliziotto, che dice: mi sono sentito mortificato, succede questo. Sabato 11 luglio, questa è la versione del poliziotto, per carità, è la versione di parte. Eravamo all'altezza del bar quando De Laurentiis ha cominciato a dire: ma chi mi porta i bagagli? Chi me li porta? E si è rivolto a me. Il poliziotto risponde: noi non portiamo bagagli, laggiù se vuole ci sono i carrelli. E De Laurentiis: ma questo è un aeroporto di merda, chi mi porta i bagagli? Allora faccio venire il pulmino della società al Napoli, li carichiamo lì e arriviamo fino all'aereo. A quel punto, spiega il poliziotto, gli ho spiegato che era impossibile, neanche il Presidente della Repubblica per motivi di sicurezza può fare una roba del genere. De Laurentiis allora esplode: ma allora che state a fare? Andate via, andate a lavorare! E io gli ho risposto che stavamo lavorando proprio per la sicurezza e anche per lui, al che mi ha messo un braccio alla gola e mi ha spinto. E parapiglia, denuncia, non è stato però arrestato, è stato denunciato. Indagano i PM, fino al momento non si conosce la versione del presidente De Laurentiis. Ma sul buongiorno di Massimo Gramellini, prima della stampa, è già definito Re Laurentiis, non De Laurentiis, ma Re Laurentiis. E non so perché, scrive Gramellini, continua a coltivare questa idea bacata che i cosiddetti VIP dovrebbero comportarsi meglio dei militi ignoti. Sarà una reminiscenza di letture impegnate. Ma l'ultima cafonata attribuita al patron del Napoli e dei cinepanettoni De Laurentiis mi ha lievemente scosso il sistema nervoso. In assenza della sua versione ci si accontenta di quella del sindacato di polizia, piuttosto circostanziata. De Laurentiis arriva a Capo Chino, va all'imbarco, per prima cosa pretende e ottiene di far saltare la coda a sé e ai 18 accompagnatori. Il ministro tedesco Schäuble li avrebbe rimessi in fondo alla fila, ma da buon italiano so che la rigidità non è un dogma. In questo caso il privilegio appare giustificato dall'esigenza di proteggere il presidente dall'invadenza tifosa dei passeggeri. Il presidente, non gli altri 18. Comunque, la rigidità non sarà un dogma, obietterebbe Schäuble, ma serve a impedire che il tizio o la nazione a cui hai appena dato un dito si prenda il braccio intero. Esattamente come De Laurentiis, che chiede a un poliziotto di portargli i bagagli e, indispettito dal rifiuto, ordina che un pulmino privato lo conduca alla scaletta dell'aereo per non costringere a mescolargli con la vile plebaglia. Il nuovo rifiuto riproduce un frasario da boss: non seguirmi, non mi servi più, è una gomitata alla gola del poliziotto. Se l'avesse vibrata un altro sarebbe finito in galera. Quanto ai troppi De Laurentiis d'Italia, il guaio di chi vive circondato da servi è che si illude di essere un signore. Ma attendiamo la versione del patron del Napoli, semmai ci sarà. Ma eccoci qui, all'articolo che ci fa tenere le mani sul volante se siete alla guida, tazzine del caffè bollente da appoggiare. È l'articolo che ci fa pensare questa giornata. Jenner, Meletti su Repubblica, vongole addio, così diventano illegali per un millimetro. È un reportage da Cattolica che racconta la crisi del settore della raccolta di vongole. Perché? Perché l'Europa ha deciso così. Allegato 3 del regolamento europeo 1967 del 2006. Le vongole, per essere raccolte, devono avere un diametro minimo di 25 mm, regolamento europeo. Il diametro medio della vongola matura coltivata in Italia arriva al massimo a 22 mm. Ecco allora che Repubblica racconta: non si trova più una vongola legale, tra virgolette, per l'Europa, nemmeno a pagarla a peso d'oro. Arrivano a un diametro di 22 mm, poi si bloccano e spesso muoiono, e l'Europa ha stabilito che non si possono raccogliere. Con quell'allegato si sta distruggendo l'intero mercato. Sono fermi 2/3 delle turbosoffianti di tutto l'Adriatico. Se non si cambia subito, la nostra vongola, la più tenera e saporita di tutti i mari, sarà solo un ricordo, dicono i coltivatori. Su questi lidi la chiamano la poverazza, perché erano i poveri a cercarla e i poveri erano anche i pescatori. Ma nel dopoguerra tutto è cambiato e le poverazze hanno portato ricchezza. Ora però tutto rischia di essere bloccato. L'Europa, lo stabilisce l'Europa, la vongola è troppo piccola. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. Il Parlamento greco ha votato sì al piano portato da Tsipras, contrattato con l'eurozona, con l'Unione Europea, e per la quale approvazione ora potrà ottenere 82 miliardi di euro. Il via libera è arrivato nella notte con 229 sì, 64 no, 6 gli astenuti. Tra i no ha votato no anche Varoufakis, l'ex ministra delle finanze. Chiaramente c'è la spaccatura proprio con Tsipras, ora certificata anche da un voto in Parlamento. Il Parlamento vota sì ai sacrifici, ma Syriza si spacca. Tra i no Varoufakis, questo è il titolo di pagina 2 di Repubblica. L'inviato Ettore Livini racconta Syriza in rivolta. Syriza è il partito di Tsipras. Il Parlamento blindato dalla polizia, migliaia di persone in piazza Sintagma a manifestare contro il governo. Poi alla sera perfino i botti sordi delle Molotov e l'odore acre di lacrimogeni. È stata una vittoria amarissima quella che Alexis Tsipras ha portato a casa. Il voto ha fotografato la drammatica divisione in Syriza. Ben 39 deputati del partito del premier, tra cui Yannis Varoufakis e anche la presidente della Camera Zoe Konstantopoulou, si sono astenuti. E pensate che la presidente della Camera ha definito questo un colpo di Stato. Si sono astenuti o hanno detto no alla riforma fiscale e delle pensioni. A lanciare un salvagente al primo ministro, dunque, è stata l'opposizione. Quindi ora si capirà anche che succederà. Dal punto di vista tecnico c'è stato un sì, l'appello di Tsipras ultimo era stato alle 19, se non avrò il vostro appoggio domani per me sarà difficile continuare a essere guida del governo, continuerà, ma certo col partito spaccato bisogna capire con chi. Tra l'altro vi segnalo due articoli sulla Grecia molto interessanti, uno è di Repubblica. Repubblica analizza con Elena Polidori a pagina 6 e 7 i dati che l'economista Zingales e l'economista Angelo Baglioni hanno pubblicato su lavoce.info. Economia avvitata. Secondo questi studi il 58% del prestito da 85 miliardi andrà ai creditori e alle banche greche. A chi andrà il prestito? In realtà è tra gli 82 e 86 miliardi di euro ancora variabili in tre anni. Il 28%, cioè 23,5 miliardi, serviranno da restituire subito per restituire i crediti al Fondo Monetario e alla Banca Centrale. Il 30% di questi miliardi, cioè 25 miliardi, serviranno a ricapitalizzare le banche greche. Il 42%, cioè 35 miliardi, serviranno per gli investimenti nell'economia della Grecia. Sul sito lavoce.info è ripreso da Repubblica, ci sono tutti i dati interessanti di questo studio, anche dove sono finiti in passato i prestiti degli altri due salvataggi, si parla di 226,7 miliardi totali. Dove sono finiti gli altri due salvataggi? Il 69,3%, cioè 157 miliardi, sono serviti a restituire i debiti e pagare interessi. Il 19%, cioè 43 miliardi, sono serviti a ricapitalizzare le banche greche e solo l'11,7% dei prestiti precedenti, cioè solo 26,5 miliardi su 226, sono andati al governo greco. Dunque la percentuale misera. Anche per questo il Fondo Monetario dice che bisogna ristrutturare il debito. Ora c'è una situazione paradossale col Fondo Monetario contro il rigore europeo, vorrei dire soprattutto tedesco, ma anche finlandese. Per esempio i finlandesi sono durissimi a dire mai più un euro alla Grecia. Il Fondo Monetario invece dice ora ristrutturate il debito, sennò la Grecia così viene strozzata. L'altro articolo molto interessante è di Isabella Bufacchi in prima pagina del Sole 24 Ore, perché risponde alla domanda, anche se non in maniera compiuta, perché una risposta compiuta sì no così chiara ancora non c'è, sull'impatto sul bilancio pubblico italiano di questo salvataggio della Grecia ennesimo. Allora, perché la domanda che si fanno tutti, l'uomo di strada, per capire è: devo scucire altri euro per questo salvataggio? Isabella Bufacchi racconta come il prestito ponte erogato alla Grecia dall'organismo Salva Stati non aumenterà il debito pubblico dell'Italia e il terzo programma di aiuti alla Grecia, se dovesse essere finalizzato con un finanziamento da parte del meccanismo europeo di stabilità pari a 50 miliardi o anche più, non farà lievitare il debito pubblico italiano. L'Italia, cioè, non deve emettere BTP in questi giorni o nelle prossime settimane per aiutare la Grecia. Sostenere finanziariamente la Grecia, quindi, per ora ha impatto zero sui conti pubblici italiani e dei partners. Guardando avanti, tuttavia, questo non significa che l'Italia non si è esposta in alcun modo alle ipotesi di ristrutturazione del debito greco. E qua c'è tutta un'analisi economica molto interessante di Isabella Bufacchi per raccontare quello che succederà, e la trovate appunto sul Sole 24 Ore. Mentre se vogliamo andare alla politica, beh, due o tre notizie interessanti. La prima riguarda il sindaco di Roma Ignazio Marino. Allora, ha perso il vice sindaco Luigi Nieri di SEL e si parla delle voci più disparate. Come rimpiazzerà Ignazio Marino il vice sindaco? C'è una trattativa tra PD e SEL. Orfini, presidente del PD nonché commissario straordinario del PD a Roma, dice: io non farò il vice sindaco. Repubblica è certa, sarà Vendola il vice sindaco di Marino. Nichi Vendola, racconta Giovanna Vitale a pagina 14, è l'arma segreta che SEL intende utilizzare per uscire dall'angolo in cui le dimissioni del vice sindaco Nieri, anche lui di SEL, l'hanno ricacciata. Salvare così l'alleanza che due anni fa ha riportato il centro-sinistra in Campidoglio. Per il Messaggero invece sarà Sabella il vice sindaco, o l'ipotesi più accreditata. Attualmente è assessore alla legalità, ex magistrato, e 6 nuovi assessori per la fase 2 di Marino, il vice sindaco, l'ipotesi è Sabella. Marino nel frattempo serenamente cita Che Guevara. Mi sono perso la citazione esatta, ma il concetto è questo: un vero rivoluzionario pensa a studiare. Questo è quello che Che Guevara scriveva ai suoi figli e che ieri è stato citato da Marino come massima, come dire, voi pensate che vada tutto a catafascio, invece io sto qua tranquillo. Sempre a proposito di politica, c'è una notizia su Repubblica che riguarda Silvio Berlusconi e il centrodestra. Il piano di Berlusconi è questo: rottamo Forza Italia e lancio l'altra Italia. Così avrebbe già deciso Berlusconi, secondo Francesco Bei, pagina 17 di Repubblica, a settembre Forza Italia, via, nasce l'altra Italia. Questo sarebbe il nome scelto da Berlusconi, che vorrebbe fare anche un repulisti, un piazza pulita di tutti i politici. Basta politici, candiderò solo persone della società civile. Si guarda Diego Della Valle, con cui in passato ha litigato moltissimo, ma ora ha lanciato a lui un ponte attraverso la comune amicizia, Daniela Santanché. E si guarda appunto alla società civile, quindi imprenditori, quindi magistrati magari un po' meno, avvocati, scrittori, giornalisti, un Mauro Meazza, tutti dentro. Mauro Meazza, buongiorno. Niente, non c'è Mauro. Mauro Meazza, sì, c'è Mauro Meazza, sì. Pronto? Sei pronto. No, sei pronto a entrare nell'altra Italia? Ma tu sei pronto? Perché è un Alessandro. No, ma io non Milano, sono un giornalista. Vogliamo... Scherzo. Sei dicente tale. Una solidarietà calcistica potrei così. Vabbè, vediamo se ti si trova un posticino nella squadra che porta il tuo nome, sarebbe anche bello per i titoli. Beh, insomma, secondo la vedo qua così. Faccio la rassegna stampa. Senti, visto che ti ho fatto rispondere, ho sentito che già l'hai segnalato agli ascoltatori, ti ho fatto rispondere dalla mia amica Isabella Bufacchi alla questione se devi dare o no dei soldi per rimborsare il prestito. E infatti Salvastati, appunto, così come è costruito al momento, non pesa sul debito italiano. Poi cose diverse quando si andrà a ragionare, e lo spiega molto bene Isabella nel lungo articolo che abbiamo a pagina 5, si andrà a ragionare sui tempi del debito, perché sai, qui stiamo trattando di questioni che si trascineranno ben oltre i tempi non solo della mia, ma persino della tua pensione, quindi ammesso che tu ne abbia poi diritto, sì, eccetera. Sì. A proposito di pensioni, hanno approvato definitivamente il decreto legge per i rimborsi ai pensionati. Lo riferiamo in norme e tributi questa mattina, norme e tributi sempre tu devi leggere, Alessandro, che ti fa bene anche alla voce. Riferiamo e appunto spieghiamo che c'è stata la votazione definitiva. Non è ancora definitiva, ma è importante, la votazione sulla delega della pubblica amministrazione, perché è quel provvedimento che verrà prima o poi approvato, in cui tra le altre cose si discute di riduzione del corpo forestale, suo conferimento in altri corpi, si discute l'accorpamento del PRA al Ministero delle Infrastrutture, il pubblico registro automobilistico, e via via riformando, e tutto questo tu lo puoi trovare sempre sul Sole 24 Ore di oggi. Ti voglio dare due notizie, diciamo, forse una sicuramente positiva, l'altra vedremo. Una è che la domanda dei beni strumentali va bene, cioè i beni che le imprese acquistano in Italia e all'estero per produrre. Va bene, va meglio, è una notizia un po' da dita incrociate se vuoi, però lo riferiamo in impresa e territori. Questa mattina c'è stata una crescita del quasi il 5%, quindi non trascurabile. E poi invece un'altra notizia che sta tutta a verificare, il governatore della Federal Reserve che ha detto rialzeremo i tassi negli Stati Uniti, e questo qui è un segnale positivo, ma vedremo se poi questo si tradurrà anche in una crescita complessiva, un segnale di maggiore solidità della ripresa. Che altro ti volevo dire? Ti ha scritto Rossella Orlandi dall'Agenzia delle Entrate? No. No, sì, hai guardato bene, sì, non è che hai perso la lettera nei giornali. Né lei né funzionari. Non è una lettera in realtà cartacea, ma avviso per il ravvedimento. No. Ti invitiamo a ravvederti se hai presentato, come dire, una dichiarazione ma fantasiosa, vogliamo dire. Ci sono 211.000 lettere elettroniche che ti dicono forse hai fatto male i conti, potresti riguardarci meglio prima di passare, diciamo, ai recuperi più decisi. Questo è il quanto ti riferiamo, indovina un po' in quali pagine? Norme e tributi. Oh, bravissimo. E invece non è in norme e tributi, ma è importante, anche se te lo segnalo per ultimo, che è praticamente pronto il regolamento sul patent box. Questo lo dico per il nostro amico Angelino. È una misura di incentivo per lo sfruttamento di marchi e brevetti. Guarda che è importante, diglielo anche ad Angelino se chiama e si lamenta per il nome inglese. Non è colpa mia, non glielo metto io. Lo farò. Allora, cari amici miei, sapete che Renzi odia i talk show. Lo ha detto ripetutamente, raccontano, lo ha detto anche martedì nel nuovo programma di Gianni Riotta. Raccontano una realtà che è diversa, negativa, diversa dal racconto positivo che noi vogliamo fare di un'Italia che si rilancia. E allora Renzi ha pensato qualcosa. Ha pensato bene di preparare, e questo lo sappiamo già dalla settimana scorsa, i propri parlamentari che devono andare da settembre nei talk show. E ha fatto un vademecum, soprattutto sulla scuola, che sarà il tema più caldo. Numeri, certezze, smentite. Ecco il vademecum sulla scuola per i deputati del PD. La Stampa, Ilario Lombardo, pagina 9. Eccolo qui. Se qualcuno vi domanda quali sono i poteri del dirigente scolastico, ha ragione chi dice che diventerà il padrone incontrastato della propria scuola? Dovete rispondere assolutamente no. Le decisioni rimarranno collegiali, il dirigente sarà valutato ogni 3 anni e così via. Ecco, questa è una delle domande risposte, 25 in tutto, confezionate dai delegati alla comunicazione, alla documentazione del gruppo PD. La funzione è una: cercare di agevolare il vostro lavoro di contatto con le persone sul territorio e le vostre frequentazioni, cioè, scrive La Stampa, elettori e show televisivi. I parlamentari hanno così il loro bignami per affrontare cittadini arrabbiati e rispondere ai gufi che svolazzano nei talk show. Tra le domande considerate più frequenti, in cima c'è quella proprio sul preside. E poi, favorirà il clientelismo? Neanche per sogno dovrete rispondere. Al dirigente scolastico è affidato il compito di conferire incarichi ai docenti. Se invece l'accusa è di aver favorito le scuole private, il buon deputato del PD che affronterà la mamma o l'insegnante della scuola pubblica un po' incacchiata su questo dovrà essere molto convincente. Basterà dire: la buona scuola non stanzia soldi per le scuole private e rilancia invece gli investimenti su quelle pubbliche. E ancora, abbiamo aumentato i controlli contro i diplomifici attraverso un piano straordinario di verifica dei requisiti delle scuole paritarie. Sarà straordinario. Quando sentirete la parola chiave diplomifici detta da qualsiasi parlamentare in un qualsiasi talk show da settembre, diplomifici, ecco, quando sentirete questa parola vorrei dire che quel parlamentare ha studiato bene il bignami che Renzi, attraverso gli uomini della sua comunicazione, ha mandato a colei, a costei o a costui del Partito Democratico. Oh, l'Italia è un paese straordinario in cui si litiga anche sui numeri, un paese in cui non è detto che 1 più 1 faccia 2. Non è detto. Il Fatto Quotidiano, ancora con Gianni Barbacetto, accusa l'Expo dicendo dicono balle sul numero dei visitatori e pubblichiamo noi dei dati. Eccoli qua, tutti i dati di coloro che sono entrati a Expo. Pubblichiamo le cifre reali, scrive il Fatto Quotidiano a pagina 4 e 5, dei visitatori nei giorni di maggio e giugno. Per esempio, dice il Fatto Quotidiano, Sala, cioè amministratore delegato di Expo, dichiara che a maggio erano 2,7 milioni, invece gli ingressi sono stati 1.927.600, cioè 772.400 in meno. A giugno Sala dice 3,3 milioni di ingressi, invece secondo il Fatto sono 2.258.450, cioè 1 milione in meno. Dati che pubblichiamo oggi e il Fatto li pubblica, non lo so, 1 più 1 fa 2 in Italia? Non è detto, non è detto. Ma non stanno tutti bene, neanche altrove, come in Germania. In Germania c'è stata una sentenza, la sentenza per il contabile di Auschwitz, così è stato definito, Oskar Gröning. Colui che doveva contare, tenere la contabilità delle vittime ad Auschwitz, 300.000 internati. È stato condannato a 94 anni, quindi con grande tempismo, processato. È stato condannato ieri dal tribunale di Lüneburg a 4 anni di carcere. Ovviamente lo so che è brutto, ma i titoli, visto che lui faceva il contabile, anche oggi Libero titola così: la vita di un ebreo in Germania vale 7 minuti di carcere. Questo è un calcolo brutale di quanti sono i 300.000 internati e gli anni di carcere, che ovviamente a 94 anni immagino non sconterà il contabile di Auschwitz. Lo trovate su Libero, trovate tante notizie ancora, trovate anche l'intervista, c'è solo il tempo di citarla, a Barack Obama, fatta al New York Times e riproposta da Repubblica, pagina 12 e 13, Barack Obama che difende il suo accordo, l'accordo degli Stati Uniti del 5 più 1 con l'Iran. Va bene, va bene, siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Indovinate un po'. Indovinate un po' che succede il 16 luglio. La Stampa ci dedica una pagina. Indovinate un po', secondo voi, che succede il 16 luglio? Oh, fa caldo. Ah, fa caldo. Luca Mercalli, luglio 2015, mai così caldo da oltre un secolo e mezzo. Ogni anno lo scrivono. Ogni anno c'è. Ogni anno poi incredibilmente a luglio è incredibile questa cosa. È incredibile. Fa caldo. Ma chi se ne frega?